Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quello che bolle in pentola non te lo voglio dire, quello che bolle in pentola lo devi indovinare. Dai che è quasi pronto, sono le 11:10, il nostro ospite d'onore ci sta aspettando, eccolo! Giulio, 42 anni, vive a Genova, viaggia spesso per lavoro e così nel tempo libero ama soprattutto riposarsi. Se nella hit parade dei suoi hobby in testa c'è il cinema, l'ultimo posto è riservato allo sport. Il mio rapporto con lo sport è quasi zero. Sono diventato socio sostenitore di numerose palestre, dopodiché pagavo l'abbonamento e basta. Ho provato anche a comprarmi un tapis roulant, dicendo avendolo in casa ho tutte le occasioni possibili per usarlo, e invece è diventato un attaccapanni. Fa parte del partito del salato e rinuncia senza rimpianti a dolci e cioccolato. Il suo tallone d'Achille, però, è la cena, dove la fame prende il sopravvento. Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Il piatto preferito da buon genovese sono i gnocchi al pesto, accompagnati dalla focaccia, specialmente alla cipolla. Purtroppo la sera ho l'appuntamento fisso, diciamo quasi fisso, col mio rosticiere, che cucina troppo bene, e prendo assolutamente di tutto. Purtroppo ogni volta mi prometto di andarci senza aver fame, e invece ci vado quando ho fame e compro tutto quello che non dovrei comprare. Dopo un incontro-scontro con la bilancia, Giulio ha capito che è il momento di cambiare e dire addio ai chili di troppo. L'obiettivo che ho partecipando a Mangia con me è quello di perdere parecchi chili, diciamo. Gli abiti che incominciavano a rimpicciolirsi potevano darmi un bel segnale d'allarme. Io sono pronto a cambiare. Sarà difficile, ce la metterò tutta e alla fine vedremo. Speriamo di non festeggiare con una cena. E perché no? Speriamo invece proprio di festeggiare con una bella cena. A Mangia con me si mangia, o meglio si impara a mangiare bene per vivere meglio. Caro Giulio, io sono proprio felice che tu abbia deciso di sederti con noi e soprattutto di metterti alla prova. Benvenuto! Grazie, buongiorno, ciao Nicoletta. Allora, una domanda prima di dare spazio ai consigli dei nostri esperti. Tutto, sì. Giulio, è cominciato da un incontro ravvicinato con la bilancia. Ma cosa ti ha detto? Come è andata? Ha dato i numeri? Quali? Sì, diciamo che l'ho incontrata per caso. Perché erano mesi che non la trovavo, non la vedevo. L'ho incontrata per caso, ho visto che c'era un po' di polvere, un po' impolverata, l'ho pulita. Poi ho detto, vediamo se funziona ancora. Ci sono salito, ha segnato dei numeri che non avevo mai visto in vita mia. Cioè, siamo arrivati a due cifre. A due cifre magari. Siamo arrivati alla soglia delle tre cifre. Alla soglia delle tre cifre, esattamente? Diciamo tonde. Tonde. Allora, invece... 100 tondi tondi. 100 tondi tondi. Allora... Non si può. Allora, da quel momento hai deciso, adesso basta, cambio. Sì, è scoppiata la tragedia. Allora, Giulio, sentiamo se sì. Anche ad alcuni dei nostri ascoltatori è capitata una cosa simile. E a loro chiediamo, che cosa vi dice la bilancia? Ci salite con regolarità oppure la lasciate lì in un angolo del bagno, della casa abbandonata? Cercate di ingannarla? Giulio ha detto, l'ho spolverata un po', né? Non si sa mai che la polvere pesi un po', o giocate invece pulito. Intanto saluto il dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi. Dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Partiamo dai 100, tondi. Dai 100 della bilancia. Insomma, 100 kg, Giulio è 1,71, siamo decisamente al di sopra di quello che dobbiamo essere, un indice di massa corporea di 34,4, insomma, è molto elevato. La bilancia è uno strumento importante, non bisogna diventarne schiavi, l'abbiamo detto tante volte, pesarsi ogni giorno è piuttosto inutile, semmai una volta alla settimana. tra l'altro con la conversione, diciamo, di grasso in muscoli, che è quello che poi si deve cercare di ottenere con un corretto approccio alimentare all'esercizio fisico, in realtà il cambiamento di peso non è sempre rappresentativo. Ad ogni modo qui bisogna calare, non c'è dubbio, è importante che Giulio abbia la motivazione giusta, ha parlato di un disastro ed è un termine che non lascia spazio ad incertezze e quindi è necessario cambiare. Il tallone d'Achille è certamente quella cena, il punto di partenza da cui dobbiamo iniziare il cambiamento è la cena. Quella di questa sera sarà la cosiddetta psicocena, cioè cena della psiche. Che cos'è? È una forma di digiuno ideata dagli antichi monaci buddisti del VII secolo. Qui vedete un buffet, un grande buffet, dove potrete servirvi a sazietà. Nell'antica tradizione del digiuno buddista, musica, come diceva il mio esimio collega, venga professore, grazie. I monaci immaginavano il loro piatto preferito. Respirate profondamente, profumi di cibo sono per tutta la stanza. E adesso, come sentirete la parola bibo, dovrete aprire gli occhi e vedete concretizzati i cibi sui vostri piatti. Uno, due, tre, bibo! Ecco qua, ecco qua. Melone, prosciutto e fichi, cocktail di scampi. Sì, là ci sono i primi, tagliolini al salmone, spaghetti alla checca con pochissimo sale e poco pepe, minestrone freddo, prego collega. Giulio, a proposito di cena, questo è proprio il pasto della giornata che più ti mette in crisi. Arrivi a casa, tanta fame, poco tempo e allora il tuo rosticcere ti dà una mano e tu ci hai detto che cucina molto bene. Tu ieri sera che cosa hai comprato e che cosa hai mangiato soprattutto? No, ieri sera purtroppo, neanche per fortuna, l'ho tradito perché ero a Roma ieri sera e però sono andato di Bucatini alla Matriciana, lo confesso. E adesso se tu volessi provare anche tu la tecnica della psicocena chiudendo gli occhi, cosa vedresti? Gnocchi al pesto, focaccia alle cipolle o cosa? Gnocchi al pesto. Gnocchi al pesto. Gnocchi al pesto. E voi come arrivate a cena e che cosa mangiate? Il proverbio dice colazione da re, pranzo da principe, cena da povero. Voi ci riuscite o invertite la sequenza? Chiamateci, diteci il menù della vostra cena e raccontateci se la improvvisate oppure la programmate. Il nostro numero verde è pronto alle cene più in linea con Mangia con me, il libro Guida al benessere, e invece anche alla cena più strampalata un'altra copia del libro, sempre Guida al benessere, che ho scritto con Paola Reverso e Alberto Pellai, perché noi siamo assolutamente convinti che il benessere si può imparare. 800 24 00 24, vi stiamo aspettando. Dottor Ungaro, Giulio però è bello, carico, vuole perdere peso, ne deve perdere parecchi, di chiletti, deve rinunciare a qualcosa, modificare il suo stile di vita, lo aiuteremo noi, ma cerchiamo di individuare qual è la sua parola chiave, quella che motiva un po' il suo cambiamento, il suo percorso. Ma allora, secondo me la parola chiave adatta potrebbe essere ordine, nel senso che è necessario che Giulio riorganizzi un po' la sua giornata inserendo un'attività fisica regolare e correggendo gli errori alimentari più evidenti e vistosi. Ricordiamoci che muoversi vuol dire anche muovere la testa, vuol dire riprendere controllo della propria vita, cioè l'azione che l'esercizio fisico regolare ha sulla persona va oltre quella di diciamo tonificare i muscoli o aiutare il cuore e i polmoni. E pensate che l'Università di Harvard ha stimato che non fumare, mangiare in maniera corretta e fare esercizio fisico regolare può prevenire l'82% degli infarti, il 70% degli ictus, il 90% del diabete di tipo 2 e una serie lunga di altre malattie che sono le malattie che ci colpiscono più frequentemente oggi. Quindi ancora una volta non ci resta che dire che sono piccoli interventi dalla potenza straordinaria in termini preventivi. Giulio, tu te la senti, ma di che cosa ti fa più paura di questo cambiamento? A parte il rosticcere, con cui potresti comunque rimanere amico. Sì, no, sicuro. Cosa mi fa più paura? Sì. Forse gli attacchi di fame al pomeriggio, dai. Forse quelli lì. Come cosa mangiare quando mi vengono quegli attacchi di fame al pomeriggio? Dottor Ungaro. Ma io penso che sia una paura condivisibile, ce l'hanno in tanti, la risolveremo, ci aiuterà anche il nostro cuoco, troveremo sicuramente la soluzione più adatta per riuscire a perdere peso, ritrovare la forma senza dover sacrificare tutto. È importante anche che Giulio tenga sempre presente questo aspetto, cioè il cambiamento a lungo termine non avviene se si sacrifica troppo e se diventa tutta una sofferenza. Quindi ci metteremo la nostra ormai consolidata esperienza per fare un programma che sia anche piacevole per lui. E poi Giulio, devo dire che gli ascoltatori di Essere Benessere e gli amici di Mangia Come si stanno già attivando, molti fanno il tifo per te e ci raccontano le loro esperienze positive, altri invece si accodano a te raccontandoci anche il loro rapporto col cibo con esempi dettagliati. Ad esempio Ale da Milano ci scrive: 135 kg, altezza 1,79, disperato al massimo, il cibo è diventato come una droga. Mentre Claudio da Pavia dice: una bilancia elettronica e quando ci salgo dice salite uno alla volta. Andiamo a sentire Graziano che ci chiama da Biella. Buongiorno Graziano, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, mi volevo dire che niente, un giorno mi sono pesato 110 kg, ho detto oltre non voglio arrivare, grazie a voi e ai vostri suggerimenti scarpe della ginnastica e dieta, adesso ne peso 85. Bravo. Però il problema mio è che riesco solo ad andare a correre sabato e domenica, quindi vicino così. E il mio problema è, come diceva il dottor Ongaro, è alla sera. Alla sera finito di mangiare, quando guardo la televisione, il mio panino, pane integrale con la Nutella, io alla Nutella non riesco A rinunciarci. A rinunciare, però vabbè, adesso riesco a tenermi controllato, grazie a voi, integrale, però il mio paura è che se un giorno non riuscirò più andare a correre oppure di riprendere tutti i chili. Ma lei stia tranquillo, Graziano, lei ci segue, i nostri esperti sono sempre a vostra disposizione e quindi le daranno sicuramente la rotta. Filippo Ongaro, chi è in sovrappeso, mangia male, in modo disordinato, non ha tempo, non ha voglia di fare attività fisica, e questo è il profilo degli ascoltatori che si possono riconoscere in Giulio. Sì, sicuramente una nota su Graziano. Graziano ha perso la bellezza di 25 kg, quindi deve essere estremamente contento del risultato che ha ottenuto, e che non significa rilassarsi, però significa anche essere soddisfatti del percorso fatto. L'ha fatto da solo, senza bisogno di particolare aiuto. Perché? Perché ha trovato la motivazione giusta, e questa è la chiave. Le tante persone in sovrappeso che mangiano in maniera disordinata e fanno una vita sedentaria si possono riconoscere in molti dei nostri casi clinici, ma la chiave di tutto è la motivazione per intraprendere dei cambiamenti e per mantenerli nel tempo. Dopodiché un consiglio a Graziano è: quella sera in cui guarda la televisione, magari la guarda davanti alla cicletta e ci aggiunge un po' di attività fisica anche la sera. Giulio, il tuo tapirulan che è diventato un attaccapanni, pensi di rispolverarlo? No, l'ho dato via. L'hai dato proprio via, eliminato ogni tentazione. Via, non volevo neanche più vederlo. No. Vi rinnovo l'invito a raccontarci che cosa mangiate per cena. È, insieme allo spuntino pomeridiano, il tallone d'Achille del nostro amico Giulio, ma di molti di voi che ci stanno scrivendo. Allora noi oggi abbiamo pensato di chiedervi che cosa mangiate. Raccontate come preparate la vostra cena, se vi fate guidare dalla pigrizia, dalla fretta, dalla fame, perché arrivate assolutamente affamati e prendete le prime cose che il vostro frigorifero contiene, le mettete in padella. Intanto noi abbiamo pensato di offrire alla cena, più in sintonia con la filosofia di Mangia con me, un libro, Guida al benessere, ma di farlo anche per chi ci racconta e ci dà un menù assolutamente strampalato che il dottor Ongaro cercherà di correggere. Dottor Ongaro, quindi anche sulla cena noi abbiamo, che è un po' la protagonista insieme a Giulio della puntata di oggi, abbiamo pensato di focalizzare il nostro quizzettone. Allora, io direi che il quizzettone è naturale per questa puntata, è proprio perché la cena deve essere leggera, perché la digestione è più lenta di sera, perché di notte il corpo necessita di meno calorie e accumula di più, o perché si deve evitare di andare a letto con lo stomaco pieno. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti, e allora muoviti. Giulio, è arrivato il momento di cambiare, quindi di muoversi. In linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano e autore di un libro di cui molti mi chiedono informazioni. Si chiama, professor Tirelli? Tecniche complementari. Buongiorno, lo dica lei che magari così è più chiaro. Tecniche complementari sportive. Sì, tecniche complementari sportive, quindi buongiorno a te Nicoletto, buongiorno al dottor Ongaro, a tutti gli ascoltatori e a Giulio che cercheremo di aiutare. Partendo da che cosa? Ma guarda, io ho visto che Giulio, da quanto si è capito, è stato molto generoso con le palestre, nel senso che ha nel passato elargito denaro ma non ha usufruito dei giusti servizi. Penso che magari potrebbe essere possibile per lui costruirsi una mini palestra in casa. E in questo senso direi che basterebbero solo 2 o 3 metri quadrati, e associando a questo discorso fatto con Giulio, io in realtà inviterei tutti gli ascoltatori digiuni di attività, in questo caso attività sportiva motoria, a seguirci. E quindi facciamo gruppo e Giulio sarà il nostro caposquadra. Io motiverò lui e chi vuole abbandonare il divano ci segua. A questo punto io metterò gli esercizi anche sulla pagina di Mangia con me, con l'ausilio di piccoli attrezzi. Giulio, il professor Tirelli ti ha investito di una grossa responsabilità. Diventi il caposquadra delle persone sedentarie con un'alimentazione un po' così disordinata, dato che il dottor Ongaro ha messo come parola chiave ordine, quindi te la senti? Una bella responsabilità. Tu fai il caposquadra, ritorniamo come quando eravamo alle elementari. Professor Tirelli, quindi ha pensato per Giulio di organizzare una piccola palestra in casa. Naturalmente noi vogliamo evitare di buttare soldi. Eh sì, è proprio per questo, appunto, io direi che per chi come Giulio non ha il tempo o addirittura, diciamolo anche sinceramente, la voglia a volte di prendere i mezzi o la macchina e andare in palestra, va benissimo avere uno spazio in casa di 2 o 3 metri quadrati e poi l'ausilio di, per esempio, un materassino ovviamente, di un elastico per compiere esercizi di potenziamento muscolare. Basterebbero anche al massimo 2 piccoli manubri da 6 kg, quelli che si usano in palestra ma che si trovano in tutti i negozi di articoli sportivi. Però la cosa più importante, tra l'altro, che io suggerisco sempre ai miei clienti e ai miei pazienti a volte, è anche quello di, la prima volta, cercare di cambiare il proprio abbigliamento sportivo. Cioè una sorta di buttare dietro le spalle al passato la vecchia, magari inadatta attività sportiva e ricominciarla anche idealmente, guardandosi proprio allo specchio con una nuova maglia, una nuova t-shirt, un nuovo tipo di pantaloncini e iniziare anche in questo modo, perché così ci si motiva, è l'inizio di una nuova esperienza. Posso eventualmente già adesso dare la modalità di come usare questi elastici? Certo, professor Tirelli. Anticipiamo, sono degli elastici che dove si acquistano questi elastici? Allora, si acquistano generalmente in tutti i negozi di articoli sportivi, nei megastore di articoli sportivi. Costo? Sono elastici ma sui massimo 12 euro, quindi sì, direi che economicamente ci possiamo arrivare benissimo. Sì, sono elastici, si può chiedere di elasticità media. Allora, cosa faccio con questo elastico? Per esempio lo aggancio ad una maniglia di una porta, oppure un termosifone, o una gamba di un tavolo o di una poltrona, e inizio a lavorare con gli arti superiori, quindi con il bicipite, quel muscolo tanto caro a braccio di ferro che ci faceva vedere che con gli spinaci aumentava di misura notevole. E cosa faccio? Mi metto davanti alla porta, quindi con questa maniglia, prendo, afferro l'elastico e inizio a portare a me la mano verso la mia spalla. In questo caso ovviamente inizio a lavorare con i bicipiti, quindi con i muscoli del braccio. Io consiglierei di sentire quanta forza si sviluppa. Qual è l'effettivo vantaggio dell'elastico? È che si adegua in misura proporzionale alla persona come fa l'acqua. Quindi io più spingo l'acqua in piscina, più ho resistenza. Più io tiro l'elastico e più l'elastico mi fa resistenza. Quindi non porto un sovraccarico. Se io dovessi, per esempio, invece alzare un manubrio da 10 kg, ma il mio braccio in quel momento ne può sopportare solo 4, andrei a stressare i miei tendini. Poi Quindi, professor Tirelli, quindi Elastico, un amico ideale che ci segue, che ci accompagna. Chiedo al professor Tirelli, al dottor Ungaro, di accompagnarci anche naturalmente nella seconda parte della trasmissione. Giulio, stai segnando, l'Elastico è per te, sarà il tuo compagno di allenamento, ma non solo lavoreremo con l'Elastico, ma anche con le altre indicazioni, altri oggetti che ci racconterà e ci darà il professor Tirelli. E naturalmente lavoreremo anche a te. Tempo di musica. Andrea degli Alti e Bassi in linea con noi. Andrea? Eccomi, ciao. Ciao. Giulio, possiamo definirti sedentario? Buon gustaio. Di più? Di più? Buon gustaio, di più? Con improvvisi attacchi di fame al pomeriggio e alla sera? Ma assolutamente intenzionato a cambiare. Stiamo lavorando già col professor Tirelli, che per lui, e suggerendo a tutte le persone che si ritrovano nel profilo di Giulio, ha pensato di organizzare una piccola palestra in casa. Stavamo lavorando sugli elastici, professore, ma ci sarà anche un materassino e dei manubri. Chi non vuole, certo, prendere i manubri può prendere le bottiglie d'acqua piene d'acqua? Sicuro. Infatti, oltre agli elastici, abbiamo appunto manubri o bottiglie d'acqua da 1,5 litri, va benissimo. E poi questo materassino, il classico tappetino da palestra per gli addominali, i dorsali, lo stretching, è una cosa che io consiglio sempre, è di compiere questi esercizi possibilmente o davanti ad una finestra, guardando il panorama fuori, piuttosto che davanti alla TV, oppure sempre comunque con l'ausilio della musica. Quando sei qui con me, il cielo in una stanza, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Noi la musica ce l'abbiamo già pronta per Giulio, scelta dagli Alti e Bassi, e in linea con noi abbiamo Andrea. Andrea. Eccoci, ciao Nicoletta. Devo dire che è proprio cucita su misura per Giulio. Perfetta, sì, a noi Alti e Bassi Giulio appare un po' prigioniero del suo mondo, diciamo così, delle sue abitudini, fatica un po' a volersi bene, e sicuramente può seguire gli esercizi del dottor Tirelli in casa, ma deve ancora, secondo noi, imparare ad affrontare se stesso, imparare ad amarsi. Solo allora la sua stanza non avrà più pareti, come dice la canzone, e riuscirà ad uscire dal solito tran tran, uscire a correre anche fino a Boccadasse, per esempio, visto che lui è di Genova. Vedi che sai anche, conosci anche Genova. Esatto, seguire così i consigli degli esperti, sia nella sua stanza che anche appunto correndo sul lungomare. In definitiva, gli abbiamo dedicato la canzone proprio di un cantautore genovese, e gli auguriamo che possa così vedere il cielo sopra di sé, ecco. Mi piace, Andrea. Giulio, sei commosso? Sì, è preoccupato. Perché quando dice andrà a correre fino a Boccadasse, tra l'altro è il posto dove si sono sposati anche i miei genitori, per cui io sono affettivamente molto legata a quel luogo, vuol dire che sa già che il professor Tirelli ti manderà a correre. Professor Tirelli, è così? Sì, io invito Giulio a fare un piccolo sforzo, dai, iniziare a lavorare con quelle che sono le cosiddette capacità aerobiche, quindi consumo di ossigeno, produzione di energia, una cosa non eccessivamente faticosa all'inizio, perché quello che proporrei a Giulio, a tutte le persone che come lui vogliono iniziare ad approcciarsi alla corsa, quindi tutte quelle persone che sono un po' a digiuno di questo tipo di attività, è quello di compiere per 2 volte alla settimana, per esempio il lunedì e il giovedì, oppure il martedì e il sabato, una piccola camminata con passo sostenuto, per esempio di 5 km all'ora, ma poi vedremo anche quale sarà la frequenza cardiaca, in modo semplice ovviamente, da tenere. Dopo questi primi minuti di passo di sostenuto, inizierei con una corsa media, medio-bassa, quindi circa 7 km all'ora. In questo caso, per esempio, se ci fosse un compagno, una compagna, un'amica di Giulio che volesse aiutarlo, sarebbe interessante con la bicicletta seguirlo, avere un piccolo contachilometri sulla bici, ma oggi i cardiofrequenzimetri più avanzati hanno anche queste possibilità di poter vedere anche la velocità. E poi nelle cuffie può sentire la canzone che gli alti e bassi gli hanno dedicato. Intanto ne approfitto per salutare Andrea. Quindi, professor Tirelli, possiamo dire agli ascoltatori che tutto il programma pensato per Giulio lo troveranno sulle pagine di Mangia con me con opportuni dettagli? Sì, troveranno tutto con gli esercizi ben illustrati, con i dettagli della corsa e poi anche come calcolare in modo semplice la propria frequenza cardiaca massima, che è un calcolo abbastanza semplice che troveranno comunque sul sito, sicuramente. Grazie al professor Tirelli, buona giornata. Grazie a voi, grazie e buona energia a tutti. Grazie. Giulio, stai pensando sì. Chi me l'ha fatto fare? No. Che cosa stai pensando? No, sto pensando che ormai mi sono esposto troppo. Diventi capo. Dottor Ongaro, può tornare indietro? Direi proprio di no. Ormai appunto si è esposto e credo che sia da prendere veramente il buono di questa esposizione e partire con molta buona volontà, ma sono convinto perché ormai, insomma, è il centro del mio lavoro questo. Sono assolutamente certo che Giulio, come accade sempre, dopo qualche giorno, qualche settimana, scoprirà di essere un'altra persona e di avere una forza di volontà che adesso ancora non vede. Quali indicazioni ha dato per la prima settimana di Giulio al nostro cuoco che è già in linea con noi, Stefano Polato? Ciao Stefano. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Mi raccomando, perché il Giulio parte da buon gustaio, ama i sapori generosi, profumati, i profumi della cucina ligure, per cui una bella sfida quella che dovrai affrontare, ma il dottor Ongaro ti ha dato un po' dei paletti. Dottor Ongaro. I paletti classici tradizionali ne abbiamo parlato tante volte, è inutile ripeterli e Stefano è in grado di interpretarli molto bene. Credo che con Giulio il paletto principale sia quello di lasciare, diciamo, che sperimenti un po' più di varietà rispetto ad alcune cose che lui non ama e che tende a trascurare, e direi che come punto di partenza, che non è certamente facile, è quello di risolvere il problema della cena creando dei menù che siano rapidi da fare e che possano battere in qualche modo l'attrazione di un buon rosticere, che non è cosa facile ovviamente, ma direi che quello è il punto di partenza principale per Giulio. A proposito di cena e sulla cena che verte il nostro quizzettone, perché la cena deve essere leggera? Il dottor Ongaro propone 3 opzioni. Perché la digestione è più lenta di sera? Perché di notte il corpo necessita di meno calorie e accumula di più? Perché si deve evitare di andare a letto con lo stomaco pieno? Potete rispondere al nostro quizzettone e soprattutto suggerire il vostro menù serale, strampalato in linea con Mangia con me. Noi oggi abbiamo 3 libri di guida al benessere, Il benessere si impara, 99 consigli per vivere al meglio, uno per l'ascoltatore che risponderà al nostro quizzettone, uno per l'ascoltatore che ci invierà o ci chiamerà al numero verde per raccontarci la sua cena, in linea assolutamente opposta alla filosofia di Mangia con me. Come sempre potete seguirci sul nostro profilo Facebook e su Twitter. Stefano Polato, stai lì perché ho Loredana da Genova, mi segnalano dalla regia con la risposta al nostro quizzettone. Loredana, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Sono a lei. Sono felice di parlare con lei. Anch'io, Loredana. Tra l'altro da Genova, mi raccomando, mi sostenga rispondo. Giulio, Sì. La cena deve essere leggera perché? Perché il nostro corpo necessita di meno calorie la notte. Quindi la domanda, la seconda risposta. Dottor Ongaro? Bravissima Loredana, è giusto. Ovviamente di notte il corpo intende di incamerare le calorie e non smaltirle. Guida al benessere, 99 consigli per vivere meglio a Loredana da Genova. E intanto andiamo a sentire qualche suggerimento per la cena da Maria Teresa da Bergamo. Buongiorno. Cosa mangia Maria Teresa? Pronto? Buongiorno Maria. Buongiorno. Teresa. Che mangia? Ascolti, io sono celiaca, per cui devo stare nella dieta sugli alimenti per i celiaci. E come cena io preferisco mangiare dunque un contorno abbondante di verdura compatibilmente al mio colon irritabile. Sì, bene. Poi del grana, perché sono intollerante al lattosio, anche, per cui va bene. Sempre un pezzettino di grana, un frutto, sì. E poi sono amante del latte, una scodella di latte parzialmente scremato con qualche cucchiaino di cacao, proprio cacao buono, diciamo. Sì, Maria Teresa, il dottor Ongaro le dirà aggiungere la varietà, vero dottor Ongaro? Ma le direi più che altro che o ho capito male io o se è intollerante al lattosio, non capisco. No, è celiaca, mi ha detto. Ha detto anche qualcosa riguardo al lattosio. Ad ogni modo, quello che secondo me manca in una cena del genere è una porzione di proteine di buona qualità, per esempio il pesce. Quindi è un po' sbilanciata, io vorrei regalare anche il libro a Maria Teresa da Bergamo. Brava Maria Teresa, la sua cena non va perfettamente bene, quindi lei può ricevere a casa Guida al Benessere. Salutiamo Maria Teresa da Bergamo e andiamo a parlare con il nostro cuoco. Stefano, che cosa hai preparato e che cosa pensi di fare per il nostro Giulio? Allora, parto con una ricetta rapidissima. Due filetti di sgombro cotti al vapore per 5 minuti. Nel frattempo che cuociono, scoliamo i cannellini, li frulliamo e facciamo una crema. Un pesto rapidissimo di prezzemolo tritato con pinoli e limone. Crema di cannellini a specchio sul piatto. Sopra un filetto di sgombro cosparso con il pesto, richiudo a mo' di cappello ed è pronto in 12 minuti il nostro sandwich di sgombro su crema di cannellini. Giulio! Ecco. Ma questo può essere un bellissimo esempio per una cena rapida e genuina. Giulio, ti piacciono questi ingredienti? Mi piacciono, ma per farlo venire bene dovrei provarci almeno 20 volte a farlo. Eccoli che sbagli, Giulio, perché noi, il nostro amico Stefano Polato, vi segue con delle ricette molto semplici, molto chiare. Vi spiega anche le tecniche di cottura, tutti i segreti per una cucina leggera, sana, gustosa, equilibrata, varia, stuzzicante. Non mi vengono più aggettivi. Una cena e una cucina che io abbrevio con sullo stile di Mangia con me. Stefano, è così, vero? Assolutamente sì. Una brevissima cosa, prima il dottor Ongaro parlava di ordine, sì, sono pienamente d'accordo. Prima cosa, dobbiamo far capire al nostro Giulio che dedicare più tempo alla cucina significa raggiungere un maggior benessere. Seconda cosa, deve riuscire a mettere in discussione ciò che introduce nel suo organismo. Quindi, passo passo, vi ricordo che come trovate i consigli del professor Tirelli, naturalmente trovate i menù che Stefano Polato, su indicazione in collaborazione col dottor Ongaro, ha preparato per Giulio. Se vi riconoscete nel profilo di Giulio, ma anche se non vi riconoscete, avete piacere di variare un po' la vostra dieta, di imparare ad abbinare correttamente i vari ingredienti, affidatevi alla tecnica e all'arte di Stefano Polato, che trovate naturalmente sulle nostre pagine di Mangia con me. Grazie Stefano, proverò la tua ricetta. Grazie a voi. Riccardo da Rimini, buongiorno, rapidissimo. Buongiorno a lei, signora, salve. Buongiorno. Io ho risolto in maniera globale per la cena. Ho messo in discussione tutta la giornata e ho anticipato tutto di 6 ore. Qui. Praticamente io faccio una colazione quasi mostruosa. Sì. Faccio pasta in tutte le maniere possibili e immaginabili. Pasta con le sarde, carbonara, non ho problemi, alle 7 del mattino. Vabbè. Proteica a mezzogiorno, sì. E la sera ho un po' di verdura, un po' di frutta, basta. Basta. Dottor Ongaro, una scelta radicale. Beh, ha fatto una scelta radicale che non è, da un punto di vista della cronologia della giornata, del tutto sbagliata. Certamente non tutti sono disposti a fare una scelta così radicale. Dai, l'ho dato a due ascoltatrici, anche a Riccardo da Rimini e Guida al Benessere. E intanto in linea con noi ci ha raggiunto il professor Andrea Segre, professore dell'Università di Bologna, presidente di Last Minute Market e autore di Cucinare senza sprechi, Ponte alle Grazie editore. Professor Segre, buongiorno. Buongiorno. Giulio è pronto per cambiare, lo aiutiamo anche a cambiare il suo modo di fare la spesa, a partire dal carrello. Sì, in effetti le cause dello spreco partono proprio dal nostro carrello della spesa. Abbiamo acquistato troppo grazie alle offerte promozionali o al tipo paghi uno, prendi due, tre, e non riusciamo a consumarlo tutto, e poi non conserviamo bene il cibo nel frigorifero e siamo un po' confusi come le etichette, e quindi insomma c'è qualche piccola pillola che si può dare. Quando andiamo a fare la spesa, spingiamo il carrello, in realtà non c'è un motorino silenzioso che ci porta in giro fra gli scaffali, sembrerebbe così perché il carrello è come trainato da qualcosa che però è nella nostra testa, forse sarà un po' la pubblicità, il marketing che ci fa andare in certe direzioni. Allora non andiamo dietro il 2x3, 3x4 e via con la tabellina. Queste offerte speciali poi portano un po' all'eccesso, tutto finisce poi nel frigorifero, magari è troppo per essere consumato, e quindi forse un altro consiglio è, quando andiamo a fare la spesa, a proposito di appetito, di fame, andiamoci a stomaco pieno. Ecco, il signore di prima andrà alle 8:30, perché lì non avrà più nessuna tentazione se si fa una carbonara alle 7 di mattina. E poi questa guida del carrello, diciamo, deve ispirarsi a un altro principio: prima o poi devi mangiare ciò che acquisti, quindi dobbiamo stilare una lista della spesa in base a ciò che realmente ci serve. È un esercizio, lo so, molto difficile pianificare, però professore, noi vogliamo aiutare i nostri ascoltatori. Se vogliono seguire le ricette di Stefano Polatto, hanno già un'indicazione su quello che devono comprare, per cui anche questo, una sinergia tra le nostre ricette e i consigli del professor Segre, sempre con l'aiuto anche del dottor Ongaro, ci aiuta a mangiare bene e a sprecare di meno. Professor Segre, un'altra pillola per la prossima, per il prossimo giovedì, quindi non buttiamo nel carrello le prime cose che ci vengono, allontaniamoci dalle offerte, il 2 per paghi 1, prendi 4, perché poi rischiamo di buttare. Quindi usiamo la testa. Professor Segre, grazie per essere stato con noi. Ricordo, cucinare senza sprechi, Ponte alle Grazie Editore. Grazie professore. Grazie a voi. Giulio, abbiamo 10 secondi per te. Lanciati, dici che cosa pensi. Lasciaci con un tuo messaggino. Vai. Allora, che lo giuro. Lo giuro, basta. Lo giuro. Lo giuro. Giulio diventa il nostro caposquadra. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, la prossima settimana. Grazie, l'appuntamento come sempre torna domani. Buona giornata.